Gambe inesistenti e una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso. Mi parlava rassegnato con la lingua di chi spera, di chi sa che prenotato sulla sedia di lillà. Ogni volta che rideva stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara. Ripeteva delirando, penso troppo al mio futuro, penso troppo e vivo male, penso che tra più di un anno cambieranno i miei progetti, penso che tra più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, cogli il giorno e tanto amore, cogli i fiori di lillà. Oh, quanti amici hanno tradito, continuava innervosito. Oh, quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare sulla sedia di lillà.